Di Giovanni Minoli. L'Italia ha un servizio di intelligence, quelli che si chiamavano servizi segreti, che non è la CIA o gli, non sono però gli inglesi, sono più forti quegli altri nel mondo, ma in Libia noi siamo i numeri uno. Sì, esatto. Le informazioni che noi, se si possono fare queste classifiche, lo voglio dire per dare anche un segnale di tranquillità all'Italia, noi conosciamo come stanno le cose in quel paese, perché ci siamo storicamente, perché abbiamo rapporti, perché quando c'era Gheddafi aziende libiche hanno investito in Unicredit o sì, nella Fiat allora, no? Per dire com'era il rapporto, non soltanto il figlio di Gheddafi che giocava nel Perugia, c'era un rapporto per il quale noi siamo molto addentro quel paese. Allora, conosciamo come stanno le cose, siamo in grado di intervenire, io non vengo in trasmissione a farle vedere i piani, però le dico, noi siamo in grado di intervenire. Va bene. Ecco, era il presidente Renzi da Lucia Annunziata lo scorso anno. Parlava dei nostri servizi segreti, l'avete sentito, i protagonisti sostanzialmente della vicenda di questi giorni e dei quattro rapiti. Per molte ragioni vedremo perché sono i protagonisti. Giacomo Stucchi, che è il presidente del COPASI, del Comitato Parlamentare di Controllo dei Servizi Segreti. Buongiorno. Buongiorno. La sua guida è considerata un po' da tutti molto equilibrata, seria ed efficace. Quindi dedichiamo questa puntata ai morti fra il Lepiano, i cui corpi sono ancora in Libia. Ecco, senatore Stucchi, allora è vero, come dice Renzi, che in Libia siamo i numeri uno con i nostri servizi segreti? Diciamo che in Libia storicamente abbiamo una presenza importante, poi è difficile dire se si è i numeri uno. No, l'ha detto lui, non l'ho detto io. Sì, sicuramente, ecco, come ripeto, abbiamo questa presenza importante che è caratterizzata storicamente da tutta una serie di eventi. Naturalmente. Fare classifiche, lo ripeto, è difficile. Però, dopo quello che è capitato in Libia in questi giorni, si può dire che il Presidente del Consiglio almeno è ottimista sui nostri servizi segreti? Ma diciamo che la Libia è una situazione complessa, nel senso che quello che è capitato in questi giorni è capitato nella zona di Sabrata, vicino a Tripoli, e non nella zona di Tobruk, dove magari è più facile essere presenti come intelligence. Sì, però, Sabrata è più difficile perché è una zona molto più complessa, più delicata, con scontri, con situazioni, diciamo, con una situazione di anarchia per certi versi. Però, onorevole Stucchi, i due ostaggi liberati hanno detto che si sono liberati da soli. Ecco, per essere i numeri uno lì che controllano tutto il territorio non è proprio un gran successo, o sbaglio? Ma guardi, adesso io credo che questa sia la testimonianza anche di un fatto che è collegato a quanto avvenuto 24 ore prima, nel senso che purtroppo durante questo trasferimento degli altri due nostri connazionali che poi sono deceduti, evidentemente, diciamo, i capi dei sequestratori erano su quel convoglio, sono stati ammazzati e coloro che detenevano gli altri due hanno preferito abbandonare la postazione e lasciare libera la cantina o comunque l'edificio dove si trovavano. Onorevole Stucchi, quindi si sono dovuti liberare, però noi avremo una riunione in settimana per avere, d'accordo, avrete le informazioni. Esatto. Senta, comunque la legge 124 che modifica, come dire, che dà al Presidente del Consiglio i rapporti praticamente di comandante in capo, prevede garanzie funzionali per gli agenti dei servizi in missione, in missioni speciali. Ecco, cosa vuol dire esattamente garanzie funzionali? Ma vuol dire che si può avere un'identità di copertura, vuol dire che ci sono delle azioni che possono essere poste in atto e che non possono essere perseguite penalmente. Ecco, non possono essere perseguite penalmente, dice lei. Ecco, ma le faccio un esempio. Un agente della CIA, per esempio, che uccide durante missioni speciali di questo genere, lo può fare. L'agente italiano ha anche oppure no? Ma guarda, io preferisco farle un altro esempio. Se un agente nostro all'estero fa un'intercettazione, tra virgolette, illegale, non può essere perseguito. Senta, comunque, intercettazione è una cosa, io ho fatto un esempio diverso, ho fatto un esempio di intervento, diciamo, delitto sulla persona. Ma io non a caso ho fatto un altro esempio, esatto, ma quando si parla di garanzie ma mi risponde anche al mio? Risponde, ma non è così. Risponde anche al mio di esempio? No, quindi la sua risposta è no. Non è possibile. Non è necessariamente così. Le sigarette funzionali non vengono date per ammazzare sempre le persone. No, l'ho capito, ma io volevo capire se comprendono anche l'ipotesi che... Ci sono delle coperture che sono molto più ampie rispetto a quelle di cui parlavo prima. Comunque, la nuova catena di comando prevede l'uso di unità speciali guidate dai servizi segreti, appunto, con nessun passaggio parlamentare. Quindi possiamo immaginare in qualche modo di andare in guerra. Il Presidente ha detto che non ci andremo. Sotto responsabilità di chi, se rispondono solo a voi? Sotto la vostra responsabilità? No, allora bisogna fare chiarezza, nel senso che l'uso delle forze speciali assieme agli agenti dell'intelligence è un uso, tra virgolette, mirato, che può essere fatto in situazioni di crisi e di emergenza all'estero e avviene sotto direttiva del Presidente del Consiglio e sotto il controllo da parte del Comitato. Questo non riguarda l'intervento vero e proprio militare, che deve essere deciso dal Parlamento, cioè non mettiamo le cose sullo stesso livello. Sono molto vicine, però sono cose che si assomigliano molto obiettivamente. Direi di no, nel senso che una può essere propedeutica, se vogliamo, ma è molto limitata la prima per quanto riguarda l'attività vera. Sì, però se le garanzie funzionali di questi agenti comprendono anche in casi estremi l'ipotesi di sparare, insomma siamo a un pelo dalla guerra, diciamo. Sono interventi necessari, perché se uno si trova di fronte a un covo di terroristi, faccio un esempio stupido, al posto che aspettare che siano i terroristi che ti sparino per primi, magari qualcuno deve andare a cercare di mettere in sicurezza quel luogo. Quindi se i terroristi sono tantissimi, sono decine di migliaia, uno può sparare praticamente sempre. No, quello non è un intervento da forze speciali, sono decine di migliaia, è un intervento bellico, anche se dire bellico, una guerra contro il terrorismo che è asimmetrica, un po' è un azzardo. Senta, onorevole Stucchi, però l'AISE, cioè i servizi segreti italiani, che secondo il Presidente Renzi in Libia sono fortissimi e controllano il territorio, sapevano dove si trovavano i quattro ostaggi, no? Se non sbaglio. Perché Abbiamo sempre avuto due tipi di informazioni. La prima, che non erano in mano all'ISIS, e questo è stato confermato. Sì. La seconda, che erano assieme, e questo è stato confermato. Sì. Quindi da questo punto di vista anche il luogo, magari non, diciamo così, l'edificio, ma la zona si sapeva. Quindi i quattro ostaggi, infatti, telefonavano a casa natale chiedendo di essere liberati. Immagino che noi seguissimo noi, i servizi nostri, seguissero costantemente, intercettassero, come dire, intercettazioni telefoniche costanti, no? Si lavorava costantemente, certo. Allora, perché li abbiamo persi? Questa è una delle cose che si sta appurando, riguardo i primi due, proprio in questi giorni, e sarà determinante parlare, come hanno fatto ieri i magistrati, con i due sopravvissuti. Certo. Ripeto, sono passati poche ore, pochi giorni, in settimana probabilmente avremo il quadro quasi completo della situazione, e ma quindi è quello che potremmo dire renderemo pubblico. Ma questo è perché anche in Libia, per quello che si può dire adesso, in Libia in due ore il tuo amico di adesso può diventare il tuo nemico, cioè c'è un ribaltamento continuo di posizioni? Ma non solo, diciamo che la situazione in Libia spesso fa sì che magari il tuo amico di adesso tra due ore appunto non ci sia più. E quindi anche a essere bravissimi a controllare il territorio. Magari deve essere sostituito. E quindi non si sa bene di chi dobbiamo fidarci. È complicato stabilire, è complicato. Anche perché le dico una cosa, quando si parla di autorità libiche, parlando della zona soprattutto di Tripoli, è molto difficile identificare che tipo di autorità, tra virgolette, effettivamente hanno. Certo. Senta, quindi alla fine sapremo, forse sì, forse no, chi li ha uccisi questi due poveri italiani in Libia, no? Ma penso di sì. Senta, ma è stato pagato un riscatto per gli altri due? No, a me non risulta affatto, l'ho letto ma non mi risulta affatto. Non se ne è mai parlato durante le nostre audizioni, quindi perché non penso. Non pensa, perché si dice, ho sentito dire, però sono voci, 2 milioni di euro, 2 milioni di euro anticipati dati a persone sbagliate. Però non sappiamo se è possibile o no questo. Ho letto anche questa cosa, però ripeto, durante le nostre riunioni non ne sapete non niente. È mai stato accennato questo fatto, e non credo che, non essendo stato informato il comitato, questa cosa possa essere avvenuta. Comunque le dico una cosa concreta: se si liberano da soli, come hanno detto, forse non è meglio star fermi e non fare niente lì? Ma guardi, quello fatto di essere liberato da soli è la conseguenza di un qualcosa che è successo 24 ore prima, lo spiegavo poc'anzi. Sì. Evidentemente i loro carcerieri sono tra quelli che sono stati ammazzati 24 ore prima, e coloro che li detenevano, che poi sono fuggiti, non erano sicuramente tra i capi dei sequestratori, hanno avuto paura, li hanno lasciati soli e per fortuna loro hanno capito che non c'era più nessuno a curarli, a sorvegliarli. Certo. E quindi sono riusciti ad uscire. Senta Stucchi, due muoiono, una vedova naturalmente disperata, ma non si riesce neanche a riportare i corpi in Italia. Perché? Perché, come dicevo prima, quando si tratta di avere a che fare con autorità, tra virgolette, libiche, la trattativa non è semplice, non è che c'è una situazione, a Tripoli parlo, quindi sì, non è che parlo della zona di Tobruk dove c'è un governo che è riconosciuto dalla comunità internazionale, lì bisogna fare una trattativa che spesso è quasi di tipo personale più che istituzionale. Io credo che noi si debba avere l'impegno di portarli a casa il prima possibile, e lo stiamo facendo, quanto mi risulta, già dalla giornata. È strano però che sia difficile, no? È molto strano, ma entrano in campo determinati meccanismi che purtroppo a noi sfuggono, nel senso che non sono tipici della mentalità magari delle nostre istituzioni riconosciute democratiche, con cui bisogna fare riferimento. Però certo, se fosse vero che è stato pagato un riscatto alle persone sbagliate, si capirebbero meglio queste esitazioni, queste difficoltà. Questa cosa qua, ripeto, la chiederò personalmente, ma non mi risulta, sarà uno scrupolo. D'accordo. Senta, Renzi comunque, l'abbiamo detto, ha introdotto uno schema che prevede l'uso di unità speciali guidate dai servizi e nessun passaggio parlamentare. Lei ha spiegato bene come è circoscritto questo evento, però questo ha cambiato in qualche modo. Ma guardi che il governo ha fatto questo, non voglio difendere il governo, ma no, ma lo può fare se lo crede. Perché una legge, il decreto sulle missioni, ha consentito al Presidente del Consiglio di fare questa cosa. Esatto, naturalmente, lo so. Quindi lo non so è bene. Una cosa, tra virgolette, segreta. No, è dentro una legge, quindi è assolutamente l'articolo, mi sembra, 5 o 7 C, non so. 7 bis, ecco. 7 bis. Ma voi siete stati informati come Copasir degli aspetti operativi comunque che derivano da questo cambio di conduzione delle azioni? Certo. È obbligato. E quindi l'attività dell'AISE, cioè dei servizi segreti, è sotto il vostro controllo, insomma. Ci mancherebbe altro. Comunque, con l'articolo 7 bis, Renzi in qualche modo si trova a essere nella posizione di un comandante in capo. Voi lo convocherete al Copasir per farvi spiegare i vari passaggi? Abbiamo anticipato al sottosegretario Minniti, proprio durante l'ultima riunione di giovedì scorso, quella fatta a seguito dei tragici eventi in cui sono morti due nostri connazionali in Libia, che il comitato aveva intenzione di convocare il presidente Renzi nei prossimi settimane, quando certo sarà disponibile, però non in tempo lunghissimo. Ecco, ma che cosa gli chiederete? Ma abbiamo una serie di questioni, di la verità, da affrontare, non solamente quella. Quindi, comunque, diciamo, la notizia è che il presidente Renzi viene convocato al Copasir per dare spiegazioni, per rispondere alle domande. È così. Abbiamo anticipato che abbiamo intenzione di convocarlo, ripeto, non solo su questa questione. Certo. Un'ultimissima domanda e la ringrazio, Stucchi. Lei pensa che ci potrebbero essere, avete qualche segnale dai nostri servizi che monitorano il territorio, che la situazione, per come si evolve la situazione in Libia, ci sono dei rischi maggiori di terrorismo per quello che riguarda l'Italia? Ma guarda, ti dico una cosa banale: più la situazione diventa confusa, più si avvicina una situazione praticamente di anarchia, e più il passaggio di qualsiasi tipo di soggetto, anche malintenzionato, nei nostri confronti può essere agevole. E quindi la stabilizzazione del paese è opportuna, necessaria, urgente. Grazie onorevole Stucchi, grazie della sua disponibilità. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Ecco Mario, questa è una situazione molto complicata. Sì. Il punto critico principale qual è secondo te? Allora, aspetti ostaggi e guerra in Libia, diciamo, a parte, no? La guerra è rimandata, come si dice in questi casi. Secondo me... credi intanto che il riscatto sia stato pagato? Insomma, l'Italia ripaga solitamente. Lo nega, ma ripaga. Esattamente. Nessuno lo dirà mai ufficialmente, ma la prassi nostra è questa. Infatti i nostri connazionali vengono sequestrati anche per questo. Cioè, i terroristi sono ben informati sull'uso, le nostre usanze, diciamo, dal punto di vista istituzionale. Quindi noi siamo bersagli in questo caso. Poi si può discutere, c'è un'ampia casistica, no, su questo. Allora, intanto sentiamo Arturo Parisi, sì. L'ex ministro della difesa. Buongiorno professore. Buongiorno. Senta, lei ha sentito, ha seguito la trasmissione, sì. Ecco. Beh, insomma, in Libia c'è un caos discreto, mi sembra, no? E la guerra, adesso il presidente dice ha frenato, però in qualche modo sembra imminente. E però ci sono mille incognite. L'Italia punta al comando della missione in Libia, e Stati Uniti e Regno Unito hanno detto subito ok. Non è che sotto c'è un rischio enorme e nessuno vuole correrlo? No, il rischio è sopra, non è sotto. è sotto gli occhi di tutti. D'altra parte, il verbo che ha usato per descrivere l'atteggiamento del presidente Renzi di ieri è solo minimamente accettabile come freno. Nell'immediato è uno stop. Con me nessuna invasione, non è un videogioco, e sono le frasi che abbiamo letto, sì, riportate nei titoli. Insomma, descrivono un Renzi che in politica estera assomiglia più ad Andreotti che ad altri suoi predecessori. Senta, però, se l'ambasciatore americano John Phillips ha detto che l'Italia potrà inviare fino a 5.000 uomini, l'ha detto in un'intervista sul Corriere della Sera, se un ambasciatore parla così, vuol dire che qualche colloquio in merito ce l'ha già avuto, no? Immagino. Beh, che si stesse ragionando su una eventuale, no, coalizione finalizzata a intervenire in Libia... Anche questo è sotto gli questo occhi è sicuro, di tutti. D'altra, certo. D'altra parte, il generale Graziano, smentendo e contrastando le voci che davano conto molto puntualmente dell'organizzazione dell'intervento, ha parlato di accelerazione, di destituzione di fondamenti, di ogni fondamento, come spesso si usa. Ecco, senta cosa ci ha detto infatti il ministro Pinotti, il suo successore alla difesa. Perché monitoriamo la situazione? Perché se nascesse un rischio concreto per l'Italia, siamo in grado di intervenire. Cioè, questo è una cosa andiamo che in guerra. Domanda. Non chiedo, nessun ministro della difesa racconta come intende intervenire, e guai se si svelano i piani militari. Bene, quindi okay, certamente d'accordo. Questo non ve lo c'è dico. Un segreto quel, su il messaggio, che si farà. Il messaggio ottimo, ottimo. Il messaggio è che non è che io parlo e parlo di preoccupazioni, sì, e parlo di politica perché faccio un problema. Ma nel frattempo c'è un lavoro che non certo è di ora, che non è di ora, che parte dalla marzo-aprile dell'anno scorso, che fa sì che se dovessero nascere rischi per il nostro paese siamo pronti. Ecco, Parisi, parole chiarissime, mi sembra, oltre il dovuto riserbo, mi sembrano chiarissime. Alla luce di queste parole, le parole dell'ambasciatore americano mi sembrano che prendano un peso non marginale. Beh, adesso l'ambasciatore americano gli ha fatto fare un salto appunto alla proposizione del ministro Pinotti, perché il ministro Pinotti ha semplicemente detto quello che qualsiasi ministro della difesa deve dire. Noi ci guardiamo intorno, esatto, laddove vediamo dei potenziali pericoli ragioniamo su come eventualmente affrontarli e pianifichiamo anche l'eventuale intervento. L'ambasciatore viceversa, ecco, ha trasformato questa potenzialità in una attualità e l'ha legata alla nostra richiesta di guida però, della missione. Però, Parisi, cioè, come a dire, se ci sarà una missione, noi condividiamo l'ambizione dell'Italia a guidarla, ma a fronte di questa ambizione ci sembra difficile non riconoscere che l'Italia deve mettere sul terreno, come ha detto lui, fino a non meno, leggerei io, di 5.000. Ecco, fino a... Senta, però la linea del governo è quella di intervenire finora su richiesta dei libici. Il ministro, del governo, di un governo ufficiale che abbia messo insieme tutti. Ecco, il ministro degli esteri del governo di Tripoli ha detto che non accetterà nessun intervento militare esterno. A Tobruk dicono altro. Ecco, questa confusione come la si può affrontare? Aspettando e stando fermi? Beh, come dire, controllando i nervi, perché questa confusione descrive anche lo spaccato che, ahimè, drammatico, che è stato illustrato in occasione della liberazione, il rilascio e la morte dei nostri connazionali, descrive una situazione dal punto di vista super caotica. Ma quando ci sono due ostaggi che dicono ci siamo liberati da soli, il Presidente del Consiglio dice i nostri servizi segreti hanno il controllo assoluto, sono i numeri uno in Libia, insomma vengono dei dubbi da qualche parte. Beh, diciamo, sono tutte modi di dire che noi usiamo per tranquillizzarci sulle cose che ci capitano intorno. A noi farebbe piacere anche che i governi ci dessero conto della pioggia, in modo da poterli individuare come destinatari delle nostre maledizioni quando piove, notoriamente. Certo, ma purtroppo non è così. Sia gli stati che i governi, come dire, hanno più pretese enormemente superiori alle possibilità di risposta, alle possibilità di cui dispongo. Ecco, Romano Prodi e Emma Bonino sono contrari all'intervento armato, in particolare pensano che l'Italia non debba guidare la missione e farsi coinvolgere nel conflitto. Lei la pensa così anche lei? Assolutamente. Adesso sulla questione della guida della missione va chiarito, l'Italia evidentemente, qualora ci fosse un'iniziativa che, come dire, corrisponde a tutte quelle condizioni che vengono volta a volta ripetute: costituzione di un governo, in qualche modo riconoscimento da parte delle Nazioni Unite, non potrebbe non partecipare in proporzione alla responsabilità di cui è chiamata dalla storia e, stare per dire, dalla geografia. Responsabilità è una parola diversa da guida, anche perché qui, prima di parlare della guida, dobbiamo parlare dei guidati. Guida certo. È un parolone, parolone. Senta, le faccio un'ultima domanda, onorevole Parisi. L'articolo, il nuovo articolo 7 bis, è che consiglia appunto, che consente al Presidente del Consiglio di decidere, condurre attraverso unità speciali, senza bisogno di passare dal Parlamento, delle iniziative? È costituzionale? È una cosa buona? Lei che ne pensa di questo articolo 7 bis? Ma, letto per come letto, è tutto in ordine, tutto a posto, mi sembra fuori discussione. Quello che viceversa merita di essere discusso è quello che la strada, la porta che questo articolo può spalancare, e che ho visto farsi largo sui giornali, cioè l'idea che il paese debba affidare la propria difesa all'estero a due tipi di azione, li ho sentiti definiti: uno riconducibile a un codice blu, che è l'azione ordinaria, quella che passa per una dichiarazione di guerra, una dichiarazione di guerra definita dalla Costituzione e affidata evidentemente per quello che riguarda la decisione al Parlamento, per quanto riguarda la dichiarazione al Presidente della Repubblica, e un'altra azione, quella che è stata ricondotta alla categoria del codice rosso, che viceversa è un'azione completamente diversa. Comunque questo articolo cambia nettamente le regole di ingaggio, insomma la condizione. Mette le premesse per una potenziale distorsione. Al momento non abbiamo alcun motivo per denunciare una naturale distorsione, ma mette le premesse. Grazie, onorevole Parisi, grazie. Arrivederci. Mario. Mi sembra una situazione davvero complicata. Secondo te il punto critico finale qual è? Ma dunque, dal punto di vista istituzionale, la Libia sta diventando una specie di esperimento legislativo anche. Cioè, secondo me, la cosa messa in evidenza da Parisi adesso, cioè che la riforma delle missioni all'estero e l'approvazione dell'articolo 7 bis, quindi la possibilità data a Renzi di condurre delle small wars, diciamo così, delle piccole guerre, delle piccole azioni con unità speciali, quella secondo me è una distorsione. Ed è una distorsione che ha due conseguenze. La prima è che Renzi diventa commander in chief, cioè capo guida delle missioni attraverso la liaison diretta, il link diretto, come è normale che sia con i servizi segreti che avrebbero il coordinamento. A questo punto è una sarebbe però una responsabilità totale. Certo. La domanda è, dice, in tempo di guerra noi diventiamo una repubblica presidenziale? No, perché noi siamo una repubblica parlamentare. Questo è l'interrogativo che lascia aperto e che ha aperto, sì, anche Parigi con il suo intervento. È una rivoluzione nel mestiere delle armi per l'Italia, questa, che non può passare, secondo me, con una legge votata all'ultimo momento, diciamo, no, così, una legge. Con un articolo inserito dopo in una discussione. No, vabbè, ma questo insomma, è dietrologia. È una legge che ha un articolo che apre delle possibilità. Io sarei favorevole, però non ci sono i contrappesi, mi segui? Sì, check and balance. Tu, Pietrangelo, che dici? Dico che c'è una porcheria di fondo, cioè si va contro un'opinione pubblica che è totalmente disinteressata davanti a un problema gravissimo, qual è quello che stiamo vivendo. Stiamo arrivando a fare una guerra nel frattempo che abbiamo perso tempo con delle stupidaggini quali la legge Cirinnà, i canguri e tutte le sciocchezze che hanno impegnato l'attenzione di tutti. Nell'eco di dolore, di disperazione della vedova Failla, rimbomba quello antico, lontano, che da sempre, e lo dico da siciliano, lo conosco bene, hanno vissuto le famiglie dei pescatori, per esempio, di Mazara del Vallo, che hanno dovuto subire da sempre i sequestri dei pescherecci, i sequestri delle vite umane e anche il costo delle vite umane in un rapporto delicatissimo qual è quello dell'Italia nel Mediterraneo. Il punto critico vero è la mancanza di sovranità e la dimensione buffonesca di Matteo Renzi, che se ne va a fare il signorino in TV nel frattempo che la vedova Failla urla e si dispera. È la prova di quanto basso sia il livello del dibattito politico e soprattutto l'indifferenza dell'opinione pubblica. Piero conclude dicendo, ci manda un SMS e dice: traduzione di quello che ho sentito finora, non contiamo una mazza ma ce la tiriamo lo stesso. Pubblicità. X24. Ecco, prima di rilassarci con le poesie di Pietrangelo, voglio leggere questo messaggio di Stefano da Prato. Mi immagino un 7 bis, l'articolo di cui parlavamo, promulgato dal Cavaliere. La Bastiglia sarebbe in fiamme da parecchio tempo. Andiamo con la tua canzone. È successo che oggi in metropolitana gli ascensori segnavano il confine ed erano in bilico sul fuoco e sulla mente, nel senso di una messa a fuoco dell'occhio della mente per fare del proprio cuore una dimora da abitare e che porti nel verso giusto. Ogni uomo, ogni donna, un anello di catena in bilico sul confine. E ha telefonato di nuovo Dürrematt e ha voluto questo brano. E questa volta però per Simenon, con un messaggio: greco cerca greca. Vediamo che si trovino. Questo assomiglia molto a quello che dicevo l'altro giorno, però. Sì, Cicco busca cicca. Senti Mario, andiamo con la tua bolla. Va bene. He doesn't bring joy. Wow, Giovanni, pensa se Duffy viene e me la canta così, Their Heart. Senti. Cadrei in ginocchio. Va bene, allora c'è il vertice UE Turchia. Invece oggi è molto importante, il presidente del Consiglio Matteo Renzi sarà a Bruxelles e poi c'è un Consiglio Europeo straordinario. Su questo i titoli dell'agenda finora sono questi. Naturalmente poi c'è Juncker che presenta il suo piano Back to Schengen, cioè tornare a Schengen. Ora non è che se n'è andato, su 26 stati sì, l'hanno sospeso, però certo, vabbè, ritornare è in crisi. A Schengen è un po', po' defunto, diciamo. Il nocciolo della faccenda, lo sanno gli ascoltatori di Mix 24 perché l'abbiamo affrontato, è l'accordo con Ankara sul controllo del confine turco. C'è un accordo stipulato a novembre dopo gli attentati di Parigi in cambio di 3 miliardi di euro. Renzi non voleva versare i soldi, poi ci ha ripensato, c'è una trattativa in corso, come sapete tutti. Risultato: il piano non ha funzionato. L'Italia in questo caso è alleata della Germania, per una volta hanno costruito un documento insieme. Il non detto è che l'Europa sta affidando il lavoro sporco alla Turchia. Questa è la verità, che non è, diciamo, che non è molto nota per avere un grande rispetto dei diritti umani. Speriamo bene, insomma. Che dire, vediamo gli esiti del vertice, però l'agenda di oggi è questa. È questa. Salamino. Esiste dal 1601. Ben tre bolle papali hanno sancito l'inamovibilità della deputazione, l'istituto laico, simbolo di unità indissolubile tra nobiltà e popolo, ma... un unicum giuridico, ma adesso... Tomo tomo, cacchio cacchio, se ne viene Angelino Alfano e vuole, come si suol dire, sfruculiare la mazzarella di San Gennaro. San Gennaro, a Napoli tutto ti vogliamo bene, sei amato, rispettato, ogni tanto fai il miracolo. Ma parliamoci chiaro, nel mondo sei poco conosciuto. No, non voglio dire che non sei considerato, ma ci sono santi più conosciuti di te, forse meno meritevoli, ma che tengano città col loro nome. San Marino, San Francisco, San Tropez. Gennari, con il dovuto rispetto li dobbiamo offuscare a tutti. Ma per arrivare a questo dobbiamo fare qualche cosa di grande. Dammi l'autorizzazione e io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro, che dici? E primo in classifica è... E c'è una mobilitazione. E se permettete, sono sicuro che anche tu, Giovanni, anche tu, Mario, tutti noi ci mobilitiamo al grido giù le mani da San Gennaro. Cioè, perché tutti i galantuomini si sono mobilitati, tutti i devoti in difesa del santo, ed è protesta in tutta la felicissima terra di Partenope contro il decreto voluto da Alfano con tanto di sommo gaudio di Crescenzio Sepe. Sottolineiamolo questo sommo gaudio, per una modifica in senso clericale della deputazione che dal musica dal 1601 gestisce in autonomia culto, tesoro e fabbricerie. Anna Maria Carloni Bassolino ha presentato un'interrogazione parlamentare, ma sia chiaro, il santo sta con il popolo, non con il clero, e a difesa del popolo, al fianco del santo, ci sono stati sempre i nobili. Quindi ripetiamo: giù le mani da San Gennaro, giù le mani da San Gennaro, giù le mani da San Gennaro, perché come ha ricordato Paolo Isotta, San Gennaro, San Gennaro è l'ungariello, ma non è scurdariello. Capito, Angelino? Capito, Crescenzio Sepe? Musica! Avrà cambiato sta roba, ma è presuntuoso, con tutti i problemi che ci sono, cioè un casino, è presuntuoso. Sai cosa hanno scritto ad Agrigento? Città natale di Angelina Alfano, scusateci. Vabbè, dai, davvero all'ingresso della città. Non sto scherzando. L'avranno scritto con lo spray rosso. No, no, è proprio un cartello. Dei detrattori. Mamma mia, quante cattive. No, ma perché poi quelli possono pensare che un siciliano fa uno sgarbo a San Gennaro? Non si fa. Continuiamo con le perfidie. Fammi dai, una dai. Bolla. Vai con le perfidie. Gravity is working against me. Beh, insomma, questa è una voce maschile, niente male. Parliamo di John Mayer. Gravity, senti. Bravo, bravo. Volevo parlare con voi di primaria, Giovanni. In realtà non voglio fare una bolla, voglio fare un mini dibattito. Anzi, vi lascio tutto. C'è poco da dibattere. E il titolo del Messaggero stamattina era molto chiaro. E dice: vince Giacchetti, pochi al voto. Catenaccio era ancora più esplicito. Praticamente metà dei votanti del 2013, circa 50.000. Giovani, pochi e niente. Molti anziani. A Roma, per carità, forse è un miracolo. Non voglio dire. Però forse anche il PD e il suo leader dovrebbero interrogarsi un po' su questa cosa qua, perché c'è poco da gioire, secondo me, su una specie di rito che resiste a se stesso in questa maniera. No? Che ne pensate? Io sono favorevole alle primarie. No, anch'io, però certo, mamma mia. Pietrangelo non è favorevole. La democrazia è una cosa troppo seria per lasciarla ai soli democratici, ai democratici, come diceva il mitico topo di Jack Marshall, agitando. Non dico cosa. Vai col canzoniere, agita il canzoniere. Ho prenotato per noi due una stanza nella casa della luna. Gli alberghi del mondo non mi soddisfano più. L'albergo dove mi piacerebbe alloggiare è la luna, ma lì, amore mio, non accettano solitudine. Ci vieni con me, o mia luna. Sulla luna 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Le sirene danno l'allarme. Ancora una volta i bombardieri tedeschi colpiranno una città inglese. Nei giorni della battaglia d'Inghilterra, i due più importanti economisti dell'epoca sono di vedetta sul tetto del King's College. Un gentleman inglese e un esule austriaco. Sono amici, ma ideologicamente rivali. E il conflitto tra le loro posizioni cambierà per sempre la storia. Amici e ideologicamente rivali sono Keynes e Von Hayek. Da una parte lo Stato, dall'altra parte il libero mercato. Questa battaglia di idee è al centro di un viaggio in 5 puntate tra storia ed economia. Un'inchiesta realizzata in tutto il mondo con al centro i personaggi, le idee, le teorie, i crack finanziari che hanno regolato e spesso sconvolto il sistema economico per oltre un secolo. Il segno del comando, l'economia emozionante come un thriller e appassionante come un romanzo. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora un aggiornamento? Sì, facciamo una cosa di economia, diciamo che stamattina non abbiamo parlato niente. E gli ordini dell'industria sono in calo in Germania a gennaio, lieve calo, pur sempre sopra alcune previsioni. Diciamo che il gigante tedesco resiste ancora molto bene a questi accenni di ritorno della crisi, diciamo così. Speriamo che tutto vada per il meglio, anche se il 2016 non è iniziato benissimo. Di borsa dei primi due mesi sono state pessime e poi insomma l'economia non sta girando molto però intanto, bene. Intanto che succede? C'è Maria che scrive a Pietrangelo e dice: Pietrangelo, io sono già qui sulla luna, cosa aspetti ad arrivare? Hai capito? Ci avessi ragione tu su questa ma un commento di Gecko ce l'abbiamo su questa cosa, su questa liaison in corso, vai. Ehi, devi essere più ottimista, molti perdono, piangono e mollano. Invece devi restare in gioco. La fortuna oggi va di qua e domani di là. Non scappare quando perdi. Non piangere quando ti fai male. È come le elementari. Ti isolano se frigni sempre. Ti isolano. Lui non è isolato. Intanto sulla luna. Lui c'ha già anche un'adepta sulla luna. Più di così. Sì, intanto adesso noi invece torniamo sulla terra col professor Roberto Bernabei, che commenta le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, febbraio 2016. Effetti collaterali associati agli inibitori di pompa. Gli inibitori di pompa sono quei farmaci che vengono da molti utilizzati per qualsiasi forma di difficoltà digestiva, dispepsia, bruciore gastrico. Sono gli antiacidi in generale, di cui l'omeprazolo è il capostipite. Poi ce ne sono tanti che oramai vengono anche venduti direttamente in farmacia, addirittura senza necessità di prescrizione. Tanto che, appunto, a parte l'utilizzo, quello prescritto dal medico, che è l'ulcera peptica, il reflusso gastroesofageo, vengono da moltissimi utilizzati appena c'è qualche problemino di stomaco, qualche bruciorino, qualche difficoltà, qualche doloretto. E allora l'articolo in questione è andato a vedere se tutto questo è safe, è tranquillo, non dà problemi. E nell'articolo si vede che di fatto l'utilizzo di questi farmaci può dare una serie di effetti collaterali legati proprio al blocco dell'acidità gastrica. Non a caso vengono definiti antiacidi, per cui si hanno infezioni intestinali, osteoporosi, addirittura inducono l'ipomagnesemia, cioè la diminuzione del magnesio nel sangue, con nefrite e problemi renali generali. Per cui, amici, benissimo l'attenzione a curarsi i doloretti di stomaco, però l'utilizzo di questi farmaci può essere assolutamente e sicuramente momentaneo, ma se c'è bisogno o pensate di doverlo utilizzare per più tempo, qui bisogna sentire il vostro medico per non cadere nei danni dell'autoprescrizione. E per chiudere, Gloria Guerrera. Oggi una canzone per chi è provato dalla notte appena trascorsa, anche per le troppe speranze. Adamo, La notte. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te. Solo vuoto intorno a me.